Limone, vetta, limone, se mani, modelli luna, te la cose nuove, te luna, te la cose nuove. Modelli, manda, cuccio, la testa, cacciando dentro me, senti dolore, cacciando dentro me, senti dolore. Tutti la testa di rotto di matto, vedo la morte di tutto valore, vedo la morte di tutto valore. Se non ti rende a mettere mamato, con un pugnale mi passo tu cuore, con un pugnale mi passo tu cuore. E la veretta vette a numerare, e tutti curuca, voi nascete, tutti curuca, voi nascete. Levatevi, compare, che non è ora di fare puntate, non è ora di fare. Venetta vette a nominare, Gesù ti curuca, voi nascete, tu ti curuca, voi nascete. Caro compare me, se cosa cara, per parlare di voi. Porta a paz.